Blue Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati gli ascoltatori di Radio 24, da Silvia Bernardi. Da emergenza a opportunità è la nuova vita dei rifiuti gestiti in modalità circolare. Non più usa e getta, ma usa e riusa in un circolo virtuoso tra produzione e consumo. Quello che prima doveva essere smaltito dopo un unico ciclo di vita diventa nuova materia prima e fonte di energia pulita, con ricadute positive sull'ambiente, dal momento che una migliore gestione dei rifiuti porta ad una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ad un utilizzo più equilibrato delle risorse come energia, acqua, terra, nel rispetto di habitat e paesaggio, ma diventa anche volano di crescita, innovazione e occupazione. Introdurre nella filiera produttiva sistemi di economia circolare e in quella dei consumi elevati standard di riciclo porterebbe ad un risparmio di 600 miliardi di euro e la creazione diretta di 170.000 posti di lavoro. Oggi in Europa si generano 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti all'anno, che vuol dire che ogni singolo cittadino produce 5 tonnellate di rifiuti, una famiglia di 4 persone, l'equivalente del peso di un vagone ferroviario. Proviamo a immaginare quante risorse si potrebbero ottenere se quei vagoni si dirigessero in un impianto di riuso invece che in discarica. È quello che vuole fare l'Europa con la sua ambiziosa riforma della politica dei rifiuti. Ne parliamo con l'europarlamentare Simona Bonafè. A che punto siamo in Europa con l'economia circolare? Beh, siamo a un buonissimo punto perché abbiamo la posizione del Parlamento e insomma presto aspettiamo che anche il Consiglio si esprima e io penso che entro l'anno dovremo avere finalmente la nuova normativa sull'economia circolare. Ambiente, occupazione, innovazione ma anche riduzione dello spreco alimentare. Sì, tanto ambiente, tanta sostenibilità ambientale, ma anche vero, tanta occupazione. L'economia circolare è questo, cioè finalmente la possibilità di tenere insieme sviluppo e sostenibilità ambientale. Infatti economia circolare significa aumento di PIL, aumento di posti di lavoro di qualità, ma significa anche tutte quelle misure di prevenzione nella generazione dei rifiuti e anche misure sullo spreco alimentare. Noi abbiamo chiesto un impegno preciso agli Stati membri di ridurre del 50% lo spreco alimentare, che insomma è un obiettivo importante, ma soprattutto è importante che nella normativa europea finalmente ci sia anche questa dimensione che è anche etica, oltre che insomma i rifiuti. Sembra un processo lungo da attivare, si raggiungeranno gli obiettivi per il 2030? Beh, io penso di sì, anche perché sono obiettivi pragmatici, alcuni stati già li stanno raggiungendo, l'Italia è sulla traiettoria giusta, io penso che in un piccolo sforzo in più ci possa arrivare anche il nostro paese, che peraltro in quanto a innovazione e know-how insomma non è fra gli ultimi al mondo e quindi dall'economia circolare ha tutto da guadagnare. Euzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.